Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, puntata speciale confezionata con me da Gianni Rosini, in regia c'è Carmelo Lauricella. Puntata speciale di Nessun Luogo perché vi offrirò un grand'angolo, una lente o un paio di occhiali, diciamo, per analizzare meglio la realtà, i grandi fenomeni che attraversano il nostro tempo. Quest'oggi parleremo di droghe, delle cosiddette nuove droghe. Quali sono, quanto costano, come vengono commercializzate, che impatto hanno sulle società europee soprattutto. Il gancio, per così dire, di cronaca ci è dato dall'ultimo attentato tragico di Parigi. Non si sa ancora, c'è un po' un punto di domanda, se gli attentatori abbiano fatto uso di questo Captagon, un nome che è tornato alla ribalta dopo anni di sonnolenza. Però è certo, vi sono stati altri casi di attentati e altri teatri medio orientali dove le cosiddette nuove droghe a base anfetaminica sono state utilizzate dai jihadisti. Questo ha portato a quell'etichetta che francamente non mi piace tantissimo, però insomma usiamola quest'oggi, la droga del jihad. Di questo vi parlo oggi in questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano. Voi sapete però che io amo dare i numeri, e allora vediamo i dati sulle nuove droghe diffuse da un ultimo rapporto MCDDA. "101 nuove droghe entrate nel mercato internazionale nel 2014, circa due sostanze a settimana. È questo il ritmo incessante con il quale si rinnova continuamente l'offerta riguardante le sostanze stupefacenti. I dati raccolti nell'ultimo report dell'Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze mostrano come, oltre alla richiesta delle droghe tradizionali, stia crescendo il mercato delle sostanze sintetiche. Il ritmo con il quale vengono immesse nel mercato nero dipende anche dalla forte concorrenza tra le varie organizzazioni criminali per accaparrarsi la più ampia fetta di mercato possibile. Una corsa al cliente che provoca un dannoso gioco al rialzo per quanto riguarda gli effetti delle droghe messe in circolazione, che così sono sempre più forti. Una così ampia diffusione, si legge poi nel rapporto, è dovuta anche alla crescita e al consolidamento di un mercato parallelo a quello di strada. La vendita sul web. È diventato sempre più semplice acquistare sostanze stupefacenti su internet, con portali, presenti anche nel cosiddetto deep web, che offrono la possibilità di lasciare dei feedback riguardanti il prodotto, così da orientare il consumatore nell'acquisto. Questa è la drammatica fotografia, secondo il recente rapporto del MCDDA, che è l'acronimo inglese del European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, cioè l'Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze. Fotografia drammatica che ci racconta di un mercato ricco, florido e in continua evoluzione, dove nuovi prodotti continuamente si affacciano. Avremo con noi un ospite proprio dell'Osservatorio Europeo per capire meglio le tendenze e l'impatto di queste nuove droghe sul mercato europeo, ma prima vi propongo un grand'angolo ancora più allargato per restare sulla metafora fotografica. Angela May, direttrice del ricerco del UNODC, che è l'ufficio anticrimine delle Nazioni Unite, a cui do il buongiorno e il benvenuto a Nessun Luogo Lontano, e alla quale chiede immediatamente, ancora una volta, una fotografia del mercato delle nuove droghe. Una fotografia, diciamo, che è molto diversificata, perché quello che, diciamo, caratterizza questo mercato è la velocità con cui cambia e con cui le nuove sostanze vengono nel mercato, e la velocità anche con cui alcune delle sostanze anche spariscono dal mercato, e poi dal fatto che vengono commercializzate con un aspetto che sembra che non siano dannose per la salute, perché vengono commercializzate come sostanze legali, e per cui insomma anche la percezione delle persone che la usano è che non sono dannose per la salute, cosa che in realtà invece sono molto dannose, perché non solo la combinazione di fattori chimici che ci sono in queste sostanze varia, uno stesso prodotto che viene commercializzato può contenere cose completamente diverse, per cui rende molto difficile sia per le forze dell'ordine identificare queste sostanze, ma anche dal punto di vista della salute, per la salute pubblica viene molto difficile per il personale medico identificare quale sostanza e quali possono essere gli effetti dannosi sulla salute. Sì. Dottoressa, la, dal mio punto di vista, insomma, più strettamente giornalistico, odioso etichetta di Captagon, il droga del Jihad, droga dell'ISIS, eccetera. In realtà forse questo tipo di tratteggio giornalistico, un po' sensazionalistico, forse un merito ce l'ha, che è quello di invece sottolineare la pericolosità di queste nuove sostanze che sono, ricordiamolo, a base anfetaminica, se non erro. Forse è stato questo, diciamo, l'aspetto positivo di quella tragedia, mettere in luce che gli effetti sono devastanti. Sicuramente, la cosa particolare del Captagon in realtà è che non è una nuova droga, sì. È una nuova droga forse per il mercato europeo, perché appunto non si è mai sentita nel linguaggio delle droghe in Europa, però sì. In realtà è una droga che è stata che viene consumata molto nel Medio Oriente, insomma, soprattutto nel Golfo, dove è la droga dei giovani e, come diceva lei, effettivamente è anfetamina, quindi è una droga stimolante, che se per in Europa i giovani hanno tradizionalmente usato come stimolante la cocaina, nei paesi del Golfo, nel Medio Oriente, Captagon è la droga stimolante che usano i giovani e quindi è una droga che veniva prodotta qualche anno fa in Europa dell'Est, ma che vediamo che invece ultimamente, negli ultimi anni, viene sempre di più prodotta invece nella regione, soprattutto Siria e attorno alla Siria. Allora, dottoressa, già che ha citato e ha fotografato questa nuova droga, ascoltiamo insieme la scheda. Usato fino agli anni 80 per curare i disturbi legati a deficit dell'attenzione, narcolessia e depressione, il Captagon ricompare oggi come una delle sostanze assunte dai terroristi dello Stato Islamico per compiere attentati o combattere nei vari fronti del califfato. La fenitillina, il principio attivo presente nelle pasticche ingerite dai miliziani fedeli ad Abu Bakr al-Baghdadi, è uno stimolante dagli effetti simili a quelli delle anfetamine. Resistenza alla fatica, mancanza di sonno e appetito e stati di esaltazione che eliminano totalmente i freni inibitori. Bandito dalla maggior parte dei paesi occidentali a causa degli effetti collaterali dannosi, il Captagon è tornato in voga in Medio Oriente anche tra i jihadisti. La sostanza è stata rinvenuta nel sangue di alcuni artefici degli ultimi attacchi in Europa e grandi quantitativi di pasticche sono stati ritrovati nelle tasche e vicino alle postazioni dei combattenti del califfato dalle milizie curde impegnate nella guerra a ISIS. Abbiamo capito meglio allora di che si tratta il Captagon, nuova, ma in realtà nuova fino a un certo punto, droga, diciamo tornata alla ribalta. Angela May, direttrice di ricerca UNODC, è il centro, un'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di crimini, tra cui appunto il traffico di droga. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano ci stiamo occupando di droghe e di un mercato estremamente sfuggente, estremamente fluido, estremamente elastico, se è vero che ogni settimana almeno due nuovi prodotti si affacciano, rendendo ovviamente da un lato gli studi estremamente difficili, dall'altro chiaramente anche l'intervento delle forze dell'ordine e anche dei medici e dei sanitari, ma poi ci andremo su quell'aspetto, perché dovete anche immaginare chi è in prima linea nella cura. Si vede arrivare un paziente, ebbene è anche difficile, viene chiesto al paziente che droga ha assunto e viene fuori un nome che non è mai stato ascoltato, sentito, udito fino a quel momento dal medico stesso, per cui un nemico estremamente sfuggente, ed è quello di cui stiamo parlando in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Allora, per raccontare un mercato si racconta l'utilizzatore finale o il cliente, si raccontano i produttori e si raccontano le rotte. Visto che alcune di queste droghe appunto sono prodotte ad esempio in Medio Oriente, dottoressa May, ci aiuti a capire meglio quali sono le rotte dell'arrivo di queste droghe in Europa ma anche in Italia? Diciamo, queste droghe sono per la maggior parte sintetiche, per cui è dove c'è soprattutto l'industria chimica chimica potente, dove soprattutto c'è questa diversificazione e anche questa capacità di produrre droghe sintetiche. Quindi le rotte veramente variano, è un po' diciamo l'Asia e l'est dell'Asia è diciamo predominantemente un'area dove queste le droghe sintetiche vengono prodotte, però anche un'area dove vengono consumate per la maggior parte, e dove invece appunto come dicevo prima, no, sullo stimolo, le droghe stimolanti sono nell'Asia e nelle altre parti del mondo, sono sì, soprattutto anfetamine e metanfetamine, dove invece noi abbiamo invece droghe tipo cocaina, ma anche in Europa le anfetamine e le metanfetamine stanno aumentando nel mercato. Sì. E quindi sì, cioè, ci sono paesi come la Cina, l'India, che dove vengono prodotte molte di queste droghe sintetiche, ma non solo, siccome soprattutto le anfetamine e le metanfetamine sono relativamente facilmente si possono produrre in laboratori quasi casalinghi, quindi vengono prodotti anche nei paesi dove vengono consumati, quindi c'è anche produzione in Europa, dove c'è molta produzione anche nelle Americhe, quindi sia nel Nord America che nel Sud America, e negli ultimi anni anche in Africa. Allora, è interessante questo aspetto, questa caratteristica di questo mercato, perché per altre invece droghe come la cocaina e l'eroina vi sono luoghi di produzione classici e i luoghi di consumo spesso sono distanti migliaia se non decine di migliaia di chilometri. Sto pensando al mercato statunitense per la cocaina, ma anche a quello europeo, e pensate dalle zone di produzione colombiane si arriva attraverso gli hub dell'Africa occidentale appunto fino in Europa, con tutta una serie di dinamiche anche riguardanti il prezzo. Ebbene, una delle caratteristiche invece di queste nuove droghe a base anfetaminica è, come ci sta rivelando la dottoressa Me, una estrema contiguità, una vicinanza tra la produzione e il mercato. Questa cosa che cosa, come si traduce in termini di prezzi e vabbè, forse è più facile questo arguirlo, di accesso da parte dei consumatori alla produzione? Sono droghe economiche? Non sono particolarmente costose, appunto perché manca l'aspetto del traffico, dove appunto, come diceva lei, diciamo la cocaina non deve attraversare molte frontiere e quindi passare da diversi organizzazioni criminali, ma sono accessibili anche dal punto di vista non solo del prezzo, ma anche dal punto di vista dell'accessibilità fisica, diciamo, si possono facilmente comprare su internet, ma sono anche vendute in alcuni casi perché appunto cambiando continuamente la composizione chimica spesso contengono delle combinazioni che non sono controllate, quindi si possono vendere legalmente, per questo che sono, diciamo, notoriamente vengono vendute anche come legalize, no? E quindi sono veramente accessibili da tutto questo punto di vista. E allora, qua stiamo mettendo in luce un altro aspetto che mi sembra fondamentale. Esiste una parte più sommersa e decisamente illegale e invece una parte che è visibile e legale. Quindi io su alcuni siti posso acquistare senza timore di commettere un reato delle sostanze a base di anfetamina, mi corregga? A base di anfetamina, ma anche diciamo quelle che sono quelle droghe sintetiche che vengono più utilizzate, che sono queste nuove droghe che non sono controllate, sono soprattutto cannabinoidi sintetici, che quindi hanno l'effetto della cannabis, qualche volta anche più potente, diciamo, del cannabis, però ce ne sono di diversi tipi, non solo di tipo anfetaminico, appunto cercano di tutte queste nuove droghe che vengono messe nel mercato, cercano anche di avere gli stessi effetti delle grosse droghe che sono controllate, per questo hanno un mercato così accessibile, diciamo, in tutto il mondo. Ci può fare un esempio di un prezzo base, per quanto sia oscillante, per quanto sia difficile fotografare? Probabilmente mentre stiamo chiacchierando già vi sono oscillazioni, già sono nate nuove droghe, già alcuni siti vengono abbattuti, per avere un'idea, una forbice, diciamo, ecco. Ma Dipende, il prezzo della droga varia sempre dalla purezza, non è tanto quanto costa, diciamo, può variare dai 10 euro ai 30, dipende da cosa, il valore, diciamo, della droga dipende dalla sua composizione, da quanto potente è. Certo. E quindi il prezzo che un utente paga per una pillola o per una, questi sono spesso venduti come incensi, ad esempio, può veramente variare moltissimo, ma perché può variare moltissimo il suo contenuto, per cui spesso l'utente non sa cosa sta comprando. Ed è per questo che, diciamo, queste droghe sono particolarmente dannose, e si è visto in Italia come in Europa, ma in tutto il resto del mondo, di gente che arriva al pronto soccorso con dei sintomi molto dannosi, diciamo, e però i medici non riescono a capire che cosa abbiano preso, perché non riescono a capire quali sono le sostanze che hanno portato questi danni, ma perché ogni confezione veramente contiene una combinazione diversa, e quindi può scaturire un effetto diverso. Grazie Angela Medi, direttrice ricerche di UNODC. Adesso facciamo una piccola pausa, poi torno subito da lei. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questa è Nessun luogo lontano, una puntata speciale tutta dedicata al traffico e al commercio delle nuove droghe. Lo sapete, ci siamo occupati in passato di eroina, di cocaina, e abbiamo tentato di tratteggiare un commercio multimiliardario, una enorme fonte di business per i trafficanti. Oggi ci concentriamo invece su un aspetto e su droghe che sono molto molto meno raccontate, eppure in rapida ascesa e diffusione. Ultimissimo capitolo mediatico e giornalistico, i tragici eventi di Parigi, dove pare che appunto gli attentatori avessero fatto uso di Captagon, una di queste nuove droghe a base anfetaminica. Stiamo cercando di descrivere il mercato, gli attori coinvolti, come sia possibile far valicare alle frontiere queste pillole, e insomma stiamo cercando di descrivere questo business miliardario. Quanto è accessibile questa nuova droga agli utenti? Lo chiediamo ad Angela Mè, che è direttrice dell'ufficio ricerche del UNODC, che è l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa pronto proprio dell'anticrimine. Angela Mè, quanto è facilmente accessibile questa nuova droga? Ma come dicevo, è una droga che si trova relativamente, diciamo, facilmente accessibile, soprattutto nel Medio Oriente. In Europa non è così il mercato non è così diffuso come nel resto del Medio Oriente. Ci sono diciamo, il Captagon è nato come una droga, come un medicinale, ed era un medicinale che veniva venduto per soprattutto i disturbi di attenzione. Ma anche era un medicinale come il Viagra, che dopo invece è uscito dal mercato legale, ed è invece, mantenendo la stessa terminologia, è entrato nel mercato illegale, quindi adesso viene prodotto illegalmente e contiene appunto delle anfetamine, quindi diciamo l'effetto che poi si è visto anche con i terroristi, diciamo un effetto che produce euforia, che aumenta l'energia e aumenta, cioè tiene, diciamo, aiuta a tenersi svegli. Sì. Chiarissimo. Che ruolo gioca internet, e in particolare il web profondo, cioè quelle reti che non sono accessibili normalmente con browser normali, ma richiedono invece altri browser come ad esempio Tor? Che ruolo gioca il deep web nella commercializzazione di questi farmaci? Sta giocando un ruolo sempre più dominante nel mercato della droga, perché nel mercato non solo tra l'altro della droga, ma di qualsiasi mercato illecito, perché queste sono droghe che vengono immesse nel mercato, che quindi si trovano, si possono facilmente comprare attraverso l'internet. Sì. E notiamo che c'è sempre una maggiore disponibilità, insomma, di queste droghe nell'internet, che porta anche delle sfide dal punto di vista anche di come affrontare queste droghe. Certo. Anche per sì. E adesso ci arriviamo alle sfide che voi, ma non soltanto, insomma, avete davanti. Un'ultima domanda invece, facendo un passo indietro, riguarda gli attori coinvolti, no, in questo mercato. Il grande trafficante delle nuove droghe, sempre usando questo termine tra virgolette, ha qualche caratteristica simile al vecchio, sempre tra virgolette, trafficante di cocaina, cioè il grande boss, uomini da miliardi di dollari l'anno, che magari commerciano anche in armi e che sono capaci di aprire frontiere tra un continente e l'altro. Quali sono, se vi sono somiglianze con questi boss, oppure si tratta di un mercato molto più fluido, più orizzontale, con tanti piccoli attori? È un mercato anche qui diversificato, dove ci sono i grossi gruppi criminali che vedono in questo ovviamente una fonte di guadagno, e essendo un mercato così vasto, ma direi soprattutto nei paesi dove il mercato della droga sintetica è così ampio, come soprattutto in Asia. Ma vediamo anche ad esempio in Centro America i cartelli messicani. Sì. Che decisamente, diciamo, sono coinvolti nella produzione soprattutto di metanfetamina, che serve soprattutto al mercato anche del Nord America. Però ci sono anche i piccoli trafficanti, come le dicevo prima, queste sono droghe che si possono produrre relativamente in ambienti non molto sofisticati, per sì. cui diciamo sono accessibili anche dal punto di vista dei piccoli trafficanti, per cui anche qui il mercato si diversifica con appunto i grandi cartelli coinvolti, sì. ma anche con piccoli gruppi criminali. E questo, diciamo, forse è, come dire, odioso utilizzare questo approccio, però è una delle droghe più democratiche che esistano, non ha particolari barriere all'entrata, no? Difficilmente permette la costruzione di oligopoli, e quindi accessibile sia dal punto di vista del cliente che dal punto di vista del trafficante, del produttore stesso, e questo forse è uno dei motivi di maggiore preoccupazione. Allora, a questo punto è venuto il momento, dottoressa May, di arrivare a quelle che possono essere le contromisure per un mercato così difficile, così fluido, così orizzontale e così in continuo cambiamento. Quali possono essere le risposte che l'Europa soprattutto può mettere in atto? Ci sono, diciamo, le risposte anche qui devono essere diversificate, certo. per un mercato così diverso. La prima risposta che diciamo dovrebbe venire è la prevenzione. Se si riesce a far comprendere agli utenti che questo tipo di droghe e questo tipo di mercato, che anche quello che viene commercializzato come se fosse legale, quindi non dannoso per la salute, in realtà può essere molto dannoso. Quindi il primo aspetto è veramente lavorare sulla prevenzione. Dopo c'è anche ovviamente un aspetto dal punto di vista del controllo, e quindi alcune di queste droghe sintetiche sono sotto controllo internazionale, quindi sotto, diciamo, le convenzioni internazionali, per cui diciamo c'è anche la cooperazione internazionale che aiuta a avere gli stati che possono collaborare in modo per limitare il traffico di queste droghe. Certo. Alcune di queste droghe invece non sono controllate a livello internazionale. In Europa, ma anche nel resto del mondo, i paesi diciamo quando vedono che queste droghe hanno un effetto particolarmente dannoso, quando ci sono veramente anche morti, vedere che gente che muore per alcune delle sostanze particolari, hanno dei sistemi per cui possono mettere sotto controllo giuridico queste droghe anche in modo relativamente veloce. Sì. Diciamo, questo richiede ovviamente una risposta molto più ampia, e alcuni paesi diciamo adottano delle leggi che sono generali, cioè al posto di mettere sotto controllo delle sostanze specifiche, mettono sotto controllo delle sostanze che hanno una composizione chimica in generale, per cui appunto riescono anche a catturare queste nuove che vengono fuori. Questi tipi di leggi, diciamo, sono più forse facili da gestire dal punto di vista operazionale delle polizie, però sono magari più difficili da gestire dal punto di vista delle corti, dei tribunali, perché diciamo è molto, il lavoro diventa molto tecnico per provare che tipo di sostanza chimica è e dentro quale legislazione cade. Altri paesi invece adottano delle legislazioni che sono invece non strettamente tecniche dal punto di vista chimico, ma sono più generali sul tipo di droga. Quindi diciamo ci sono dei diversi approcci e ognuno ovviamente ha dei vantaggi e dei svantaggi, però quello che si può dire è che ci sono diciamo gli strumenti per controllare il traffico e la produzione di queste droghe, però certo che è sempre una corsa dietro, perché ogni volta che si è trovata la soluzione i trafficanti riescono a trovare una soluzione che riesce. Per quello che dicevo prima, è molto importante la prevenzione, perché alla fine si devono lavorando da ambo le parti nel controllo del traffico, ma anche nel controllo dell'uso, che si riesce ad avere un risultato. Devo dire che da questo punto di vista anche l'Italia, se si vedono i pochi dati che ci sono sull'uso di queste nuove droghe, l'Italia rispetto al resto dell'Europa ha un uso relativamente basso di queste nuove droghe rispetto ad esempio ai paesi anglosassoni, dove hanno in Europa tra gli usi più alti di queste nuove droghe. Come legge questo fenomeno, dottoressa? È una questione culturale, una questione di maggiore comunicazione da parte degli organi competenti sui pericoli di queste droghe o abitudini sociali? Direi, credo che un aspetto è anche un aspetto, come diceva effettivamente lei, culturale, è anche la consapevolezza, che forse in alcuni paesi c'è più che in altri, di quello che del benessere, no? Dell'importanza di assumere sostanze, non sostanze, proprio di pensare di più al benessere proprio e della propria salute, che in alcuni paesi forse è più forte che in altri. Ci sono anche ovviamente abitudini sociali e anche il modo che queste droghe vengono chiamate, no? Spesso club drugs, perché appunto sono anche legate ad alcuni, molto spesso vengono trovate nelle discoteche, nei clubs, e dove vengono maggiormente diciamo commercializzate. Sì. E poi c'è un aspetto, ma che poi tratteremo in parte anche con un altro ospite nel proseguo della trasmissione, che è quello dello stigma, no? Dello stigma sociale. Un po' in tutta Europa alcune delle vecchie, sempre tra virgolette, droghe sono state ampiamente stigmatizzate, anche perché il consumatore aveva anche delle conseguenze fisiche dell'aspetto, no? Estremamente identificabili. Invece queste droghe, tra virgolette, un po' più pulite, così che cambiano così velocemente, che così facili da assumere, e così forse quel gesto, anche quella pillolina, no? Riduce in qualche modo gli effetti. C'è questo aspetto, secondo lei, no? Di sottovalutazione proprio per anche la dinamica dell'accesso e dell'assunzione della droga stessa rispetto ad altre droghe più pesanti? Assolutamente, e questo assolutamente si nota anche quando si vedono i dati, non solo per le nuove droghe, ma ad esempio si vede come effettivamente l'uso o l'abuso diciamo di alcune droghe si è anche spostato recentemente sempre di più anche nell'abuso di farmaci, proprio per questo motivo della stigmatizzazione, e si è visto negli Stati Uniti negli anni precedenti, dove l'uso di eroina è passato invece all'abuso di farmaci contro il dolore, che hanno, cioè, molto potenti ovviamente, che hanno gli stessi effetti dell'eroina, che però non hanno questa stigmatizzazione che si può avere diciamo per l'uso di eroina, e questo si vede in queste nuove droghe assolutamente allo stesso modo, perché appunto sono commercializzate come droghe legali, per cui come droghe che sono accettabili, e quindi sono accettabili anche dal punto di vista dell'emblema, del simbolo, no? Che possono avere quando le persone usano, arrivare invece al punto di invece dire che sono trendy, cioè che fanno che anzi diventano di moda, no? Sì, sì, sì. Un'ultimissima domanda, dottoressa May, prima di lasciarla al suo lavoro, riguarda se è possibile individuare un caso nel mondo emblematico di produzione appunto di queste droghe e di una risposta in loco efficace dal punto, un caso di scuola dove, dove i controlli sono funzionati, dove c'è stata una riduzione della produzione o del consumo. Abbiamo parlato dell'Italia che per ragioni sociali e culturali insomma sembra più o meno rispondere in maniera positiva a queste sollecitazioni. Esiste un caso per voi di scuola? Abbiamo citato paesi di produzione come l'India, la Cina. Mi viene, quello che mi viene in mente così l'esempio del methadone in, in Inghilterra, questa è stata una droga che nel, diciamo, ha prodotto degli effetti veramente molto seri nella salute, ci sono state morti ma anche persone che veramente hanno avuto effetti molto seri in Inghilterra, e quello che le autorità inglesi hanno fatto è stato mettere sotto controllo questa droga e si è visto che dopo che è stato messo sotto controllo, diciamo controllo vuol dire che appunto non era più una droga che poteva venire, una sostanza che poteva venire commercializzata legalmente, ma che viene appunto considerata illegale all'interno del paese, e si è visto che in un paio di anni c'è stata una drastica riduzione dell'uso di questa droga. Chiarissimo, chiarissimo. Grazie mille dottoressa May per essere stata con noi. Grazie a lei. In questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, in cui stiamo cercando di fotografare il commercio e il traffico delle cosiddette nuove droghe, stiamo scoprendo in realtà che alcune di esse non sono affatto nuove, ma stanno vivendo una nuova ribalta anche a causa di alcuni tragici eventi. Manca un tassello fondamentale che verrà colmato dal professor Riccardo Gatti, a cui do il mio benvenuto e il mio buongiorno, professore. Buongiorno. Allora, il professor Gatti dirige il Dipartimento Dipendenze dell'ASL di Milano. Perché dico che colmerà un tassello fondamentale? Beh, perché anche le volte in cui questo programma si è occupato, ad esempio, dei grandi traffici di eroina e di cocaina, chiaramente si è dovuto occupare dell'utente, del cliente, dell'utilizzatore finale, quello che alla fine sborsa ingenti quantità di denaro. Stiamo capendo che è un mercato questo delle nuove droghe in ascesa e che frutta parecchi milioni di euro o di dollari, se preferite, ai trafficanti e ai produttori, ma appunto è fondamentale anche occuparsi di quella che è la domanda di queste specifiche droghe. Professor Gatti, rispetto ai consumatori di eroina e di cocaina, droghe iper raccontate, iper mediatizzate, queste sono un po' diverse, diciamo, sono state un po' nell'ombra fino adesso dal punto di vista del racconto. Che differenze ci sono tra il consumatore di quelle vecchie droghe e il nuovo consumatore? La differenza è essenziale. Diciamo che per un certo periodo il consumo di droghe aveva a che fare con lo stile di vita. Quindi se io faccio un esempio, giacca blu, camicia bianca, SUV, locali alla moda, già chi ci ascolta ha in testa una droga di consumo, ma lo stesso se dico consumo al mercato ecosolidale, gira in bicicletta con maglioni irlandesi, ha una compagna che vive con lui che pure si muove in bicicletta e ama il mercato ecosolidale, già si ha in testa che tipo di sostanza queste persone potrebbero usare. In realtà non c'è nessuna ragione per questo, se non per il fatto che in parte il marketing, in parte un nostro modo di vedere le cose ci ha fatto associare ogni comportamento, ogni stile di vita ad un tipo di sostanza. Sì. Il consumatore delle sostanze nuove non necessariamente invece si identifica con uno stile di vita, cioè è una persona che in quel momento utilizza la sostanza perché vuole ottenere uno scopo, di solito l'alterazione piacevole, stimolante, defatigante o sessualmente, secondo lui, coinvolgente, ma non fa parte di uno stile di vita, non veste in determinato modo, non ha determinate frequentazioni specifiche, semplicemente consuma in modo strumentale e il giorno dopo ricomincia, se riesce, a fare una vita, diciamo, completamente omologata, completamente normale. Quindi questo consumo è molto più insidioso perché è trasversale alla popolazione generale, insomma, chi consuma è il nostro vicino di casa, è la persona che abbiamo di fronte, non è una persona particolare, tanto per intendersi. Chiarissimo, e questo evidentemente è uno dei punti di forza di questo business miliardario. Professore, dalla sua esperienza, dal suo osservatorio, il fatto che cambia qualcosa se la produzione, i centri di produzione di queste sostanze sono ad esempio italiani o europei oppure molto distanti, cioè abbiamo raccontato come ad esempio Cina e India siano dei paesi che producono in maniera massiccia queste, queste nuove sostanze, ma sono prodotti anche molto facilmente sintetizzabili anche quasi a casa, oserei dire. Lei dal punto, dal suo osservatorio cosa ci può raccontare? Oddio, facilmente sintetizzabili, beh sì, con alcuni limiti, cioè sì. Facilmente sintetizzabili per un chimico esperto che ha un minimo di attrezzatura e che si sottopone anche ad alcuni rischi, perché questi laboratori per alcune sostanze ogni tanto saltano anche in aria, quindi non è propriamente una cosa facilissima. Sì. Diciamo che però è, la rete ha creato una specie di droga chilometro zero tra il produttore e il consumatore, cioè queste sostanze saltano praticamente grossa parte della tradizionale rete di vendita che vedeva la sostanza di origine sì. naturale prodotta da agricoltori e poi fare un lungo percorso lungo rotte diverse nel mondo in cui era soprattutto non tanto una droga quanto una moneta di scambio, diventava sì. droga per il consumatore finale. Sì. Qui invece il rapporto è molto più rapido, lei può mettersi in contatto con qualcuno che magari in India produce in laboratori neanche poi tanto clandestini, ma comunque sì. non ufficiali, diciamo così, farsene spedire a casa, arriva come prodotto confezionato per, non per uso umano piuttosto che qualsiasi altra cosa, e le arriva a casa una busta e lei se la usa, se la utilizza, oppure può mettersi a fare un piccolo commercio tra le persone che conosce, perché un'altra delle cose che è cambiata è che una volta si andava tipicamente dallo spacciatore, sì. lo spacciatore stava in luoghi particolari, sì. Meglio se ti conosceva, perché se no forse magari non ti vendeva neanche niente se non eri introdotto nell'ambiente. Adesso chi vende, lei provi a chiedere alle persone che consumano, spesso sono tra virgolette amici, persone che conoscono, esercenti di locali che frequentano piuttosto che altre cose, ma non si è creato un meccanismo alternativo. E quindi direi che parlare adesso di mercato della droga diventa anche un po' anacronistico. Ci sono mercati delle droghe e diciamo che i mercati delle droghe di origine tradizionale, quelli che fanno lungo percorso, sono a mio parere anche in competizione con quelle delle droghe sintetiche. Per cui in questo momento siamo in un momento di particolare instabilità, perché non c'è ancora il vero leader di mercato. Cioè, da una parte abbiamo le organizzazioni criminali che si sono spostate, diciamo, sul brokeraggio internazionale, sui traffici importanti, ma che non entrano più in catena gerarchica fino allo spacciatore finale per le droghe di origine tradizionale, sì. che di solito sono derivazioni di prodotti agricoli. Sì. Per le droghe di tipo sintetico c'è di tutto, perché da una parte il mercato delle organizzazioni criminali esiste, e specialmente sui grossi quantitativi e sulla distribuzione internazionale, ma ci sono anche molti produttori in proprio che sfruttano il chilometro zero prodotto dalla rete per mettersi in commercio. Il risultato di questa cosa è che le persone spesso non sanno nemmeno che cosa assumono, cioè nel senso che gli dicono che hanno assunto questa cosa e poi loro la prendono e vedono l'effetto che fa. Diciamo che chi vende non ha interesse evidentemente che il consumatore ne abbia un danno, ha interesse a vendergli il prodotto. Però è anche vero che nel pronto soccorso, quando arriva la gente, il rianimatore magari lavora di rianimazione, ma se gli chiede che cosa ha preso forse è inutile, perché forse nemmeno chi ha venduto il prodotto sa esattamente che cosa conteneva. Chiarissimo, chiarissimo. Professor Gatti, un'ultima domanda prima di ringraziare e lasciare al suo lavoro, riguarda proprio gli effetti di queste sostanze, perché i giornali hanno parecchio ricamato e insomma purtroppo a volte il sistema mediatico soffre un po' di sensazionalismo, di voyeurismo se vogliamo, insomma è stata affibbiata questa etichetta droga del jihad, partendo da alcuni casi di cronaca verificati e altri facendo supposizioni, ad esempio il caso del Bataclan a Parigi. Queste sostanze danno realmente, annullano la percezione del pericolo, cioè dal punto di vista strettamente logico, ecco, e analitico, sono la droga perfetta per un terrorista, per cui inibiscono la paura, danno coraggio, non ti consentono di non mangiare, di non dormire? Guardi, la droga perfetta non sarà mai inventata, nel senso che è un'illusione il fatto di trovare delle sostanze che ti modulano come tu desideri, sì, e da cui hai il risultato che vuoi senza avere dei problemi conseguenti. L'uso di sostanze in guerra, in battaglia, sì, eccetera, è vecchio come la storia del mondo. In realtà è pieno anche di fallimenti, nel senso che è evidente che tu puoi prendere anche una sostanza che ti stimola, che ti fa diventare più cattivo, che sì, ti inibisce l'aggressività, però è chiaro che poi perdi in precisione, in lucidità, in diciamo incapacità analitica del problema che hai intorno. Parti come un toro infuriato e quello che becchi becchi, però io ho la sensazione anche che attorno a queste cose non vorrei sembrare diciamo dietrologo, ma ci sia comunque un marketing, perché guardi che il fatto di dire che certe persone usano certe cose e poi ne provoca una ricerca sul mercato, e per chi le vende questo è sempre un vantaggio. Qualcuno che produce e che vende c'è anche nell'ambito dell'autofinanziamento, per esempio anche di azioni terroristiche eccetera, però non ci farei troppo sopra un poema, nel senso che diciamo che le droghe sono sempre state una grande illusione, spesso danno l'effetto che ti aspetti, hanno un effetto proprio, ma poi tu te lo esalti perché le hai pagate, perché ci dai un grosso valore, oppure le usi molto funzionalmente, ma mi creda, la droga perfetta non esiste, e purtroppo chi ci crede spesso ne ha anche dei grossi danni. È vero che io vedo le cose da un punto di vista particolare perché faccio il medico e gestisco dei servizi di cura, però guardi che le persone che arrivano da noi, più o meno a Milano è un giro di 9.000 persone ogni anno, sono tutte partite dal fatto che speravano qualche cosa da queste sostanze, che pensavano di poterle controllare, di stare bene, di fare, e poi si sono trovate con dei problemi, parliamoci chiaro. Le droghe in fondo non sono diverse dai farmaci da un certo punto di vista, e tutti i farmaci sono veleni. Poi dopo possono provocare uno sbilanciamento che rispetto alla malattia o alla situazione specifica che tu cerchi magari ti dà in quel momento un vantaggio. Se c'è una malattia forse ancora il vantaggio può superare lo svantaggio, in tutti gli altri casi rischi di prenderti gli effetti collaterali, gli indesiderati, le alterazioni che ti danno e che ti aumentano magari certo tipo di possibilità e te ne tolgono altre, ma poi alla fine rimani peggio di quello che sei. Se va bene. Io ringrazio il professor Gatti per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro a voi. Tutto per questo appuntamento di Nessun Luogo Lontano, gentili ascoltatrici e ascoltatori, un grazie a Gianni Rosini che ha confezionato con me questa puntata. L'appuntamento è per il 27 dicembre alle ore 17, quando vi proporremo una versione extra large con più contenuti e più voci di Nessun Luogo è Lontano, sempre dedicata alle nuove droghe. Intanto un saluto e buone feste da Giampaolo Musumeci.